pensate, avete visto Ceni il cinese. Quello che ha cambiato l'insegna del bar e che cantava fantastiche storie d'amore. Oh, per caso avete visto Ceni il cinese? C'è il cinese passato di qua, non vedi tutte le vetrine accese, vedi il muto assassino parlare alla luna. Oh, c'è il cinese passato di qua, lui era un bravo ragazzo, parlava di cose mai viste e segrete, e l'erba che dava era sempre più dolce, la coltivava in ricordo di lei. Oh, ma c'è, il cinese non tornerà, scusate, avete visto il muto assassino, è lui che gli ha offerto quel biglietto per Roma e che ha tagliato quel pane con gocce di vino. Visto per caso quel muto assassino, è lui che in silenzio è passato di qua, non vedi tutti i portoni chiusi e la nera padrona cantare ai bambini. Chen, il cinese non tornerà. Lui era un bravo ragazzo davvero, amava cose mai viste lontano, e l'erba che dava era sempre più dolce, la coltivava in ricordo di lei. Oh, ma c'è, il cinese non tornerà.